Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è una sola cosa al mondo che il denaro non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Buongiorno a voi e benvenuti da Nicoletta Carbone. Credo che non ci sia incipit migliore di questo di Walt Disney per dare inizio alla puntata di oggi, in cui vogliamo raccontarci reciprocamente quanto e perché gli animali occupano un posto sempre più importante nella nostra vita. Io però credo di saperlo. Sono buoni amici, ci rassicurano, ci tengono compagnia, ci fanno divertire, ci sanno capire quando siamo tristi, ci sanno stare vicino senza giudicarci. Così, giorno dopo giorno, si trasformano da animali da compagnia a membri della famiglia a tutti gli effetti. Tanti gli ospiti di oggi in linea con noi. Abbiamo due esperti di emozioni: il professor Claudio Mencacci, psichiatra all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore. Grazie, buongiorno a lei e gli ascoltatori. Non faccio bau bau però. Va bene. Senta, lei come psichiatra e devo dire come amante dei cani, vero? Confessiamo subito questa sua predilezione. Se c'è un cane in un appartamento, immediatamente viene a fare amicizia, per cui questo ormai in tanti anni è diventata un'amicizia sia ai cani che sono stati con me, ma anche quelli degli altri amici. E a lei chiederemo di spiegarci anche il mondo emotivo di un uomo che vive a fianco di un animale, che cosa cerca. Abbiamo, insomma, chi aiuta chi, insomma, nella relazione tra uomo e animale. Ma in linea con noi è tornato a trovarci anche il professor Paolo Zucca, che è ricercatore in psicobiologia presso l'Università di Teramo. Buongiorno professore, bentornato e grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Professor Zucca, lei toccherà fare il lavoro contrario, insomma si metterà nella testa del nostro amico peloso e ci racconterà quale emozioni si accendono in lui quando ci sta vicino. Beh sì, certamente, insomma, perché voglio dire, non sono delle macchine che eseguono degli ordini e basta, sono degli esseri pensanti che hanno un sacco di emozioni, talvolta molto sottili e difficili da cogliere, ma voglio dire, soffrono, gioiscono, eccetera, come lo facciamo noi. Però in una puntata tutta dedicata agli animali non poteva mancare il nostro amico il dottor Mauro Cervia, medico veterinario che è in studio con me. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Allora, è presidente dell'associazione Io Amo Gli Animali e questo già ci piace, è autore di numerosi libri tra cui Cane Terapia. Siamo più a favore dei cani per adesso. Ma in questo senti, momento no, cani e gatti vanno bene comunque. Tu dicevi giustamente che i cani comunque sono fonte di benessere per noi, però purtroppo io ho osservato tra molti miei clienti possono essere anche uno stress per loro, perché ci sono dei rapporti sbagliati con il proprio animale che comportano uno stress. Cioè tu non puoi per esempio uscire di casa perché il tuo cane distrugge l'appartamento, urla, abbaia, i vicini si lamentano, non, quando lo porti in giro ti manifesta un atteggiamento ansioso. Questi sono tutti degli errori di comportamento che si possono comunque correggere. Certo, e noi ne parleremo oggi, ma soprattutto dottor Cervia, la sua presenza qua permetterà ai nostri ascoltatori di chiarirsi tanti dubbi e soprattutto di avere delle preziose indicazioni, perché la convivenza deve essere assolutamente improntata al benessere ma anche salutare quindi dobbiamo occuparci dei nostri cani, garantire quindi tutte le vaccinazioni che sono necessarie per evitare pericoli anche per la salute degli umani. Anzi, a proposito, già che ci siamo, colgo l'occasione per dire che purtroppo c'è una malattia che era stata sconfitta per parecchi anni, che è la rabbia, e purtroppo questa malattia sta tornando. Perché? Perché i confini sono aperti con i paesi dell'est, con i paesi africani, quindi c'è un trasporto di animali da questi paesi dove la malattia ancora rimane. Sto parlando della rabbia, quindi è importante vaccinare i propri animali, soprattutto il cane, perché l'animale più sensibile alla rabbia, contro la rabbia, che è diventato anche obbligatorio in Veneto e in Trentino. Cani che viaggiano, cani che vanno in montagna, cani che vanno in giro devono essere vaccinati. È una diceria pensare che il vaccino contro la rabbia possa provocare dei danni al nostro animale. Non fa assolutamente niente ed è il più sicuro che esista. In studio però abbiamo anche Roberto Allegri, giornalista. Ciao Roberto, possiamo Buongiorno. Darci del tu. Grazie. Autore di numerosi libri, Vita da gatti, istruzioni per l'uso, che è stato firmato insieme alla gatta Butterfly. Sì, è un libro di qualche anno fa che ho voluto firmare, diciamo così, insieme alla mia gatta. Ci ha messo lo zampino, insomma. Lei ci ha messo più dello zampino. Io ritengo che vivere con un gatto o con un cane, cioè come andare all'università ogni giorno, perché ti spiegano, ti insegnano talmente tante cose, e io, tu non puoi, non devi fare altro che stare ad osservarli e scrivere quello che ti suscitano. Però ha scritto anche Amore e fedeltà, vero? Ho scritto anche un libro insieme a mio padre, che anche lui è uno scrittore e grande amante dei cani, un libro dove abbiamo raccolto storie vere di cani, raccolte un po' o raccontate da personaggi noti o trovate in internet o sui giornali, dove viene riconosciuta l'amore e la fedeltà estrema che i cani hanno nei confronti delle persone. Professor Mencacci, tante volte le persone che amano gli animali vengono guardate da chi in casa un animale non ce l'ha con un po' dire ma sono un po' fuori, no? Sono esagerati. Beh, questo è l'errore di non considerare, anzi di non vedere che in quello c'è una relazione. E mi piace usare il termine che è la vera relazione, perché tra un uomo e un animale, io ho un'esperienza ovviamente più con cani, è una relazione fatta di reciprocità, di solidarietà e direi a volte, come tutte le belle relazioni, anche di complicità. E allora quando gli altri guardano, guardano sempre un po', è vero, dicendo che sembrano un po' eccessivi, ma io penso sempre che quegli occhi sono anche gli occhi di quelli che, guardando le persone che si vogliono bene, pensano che fanno smancerie. No, sono persone che si vogliono bene. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? Professor Mencacci, devo dire che ho scelto questo breve estratto da Io e Marley pensando alla nostra comune passione nei confronti dei cani, ma naturalmente parleremo anche di gatti, sicuramente. Faremo una par condicio. Certo, però professore, l'abbiamo già anticipato e chi ha un cane in casa, un gatto, lo sa bene, che la loro compagnia ci rende più felici, ci aiuta in qualche modo a crescere, e lo dico per tutte le età, per un bambino ma anche per una persona che è un po' avanti negli anni. Certo. Ha un grande potenziale terapeutico questa relazione tra uomo e animale. Ecco, io ho bisogno che lei, da esperto, da scienziato, ce la provi, ecco, perché non è solamente una cosa che diciamo perché li amiamo, ecco. Beh, direi che ormai anche le prove documentate scientifiche sulla pet therapy, che è la forma diciamo più organizzata e di avvicinamento del rapporto tra persone e animali, quindi in qualche modo guidata, ha ampiamente dimostrato non solo la sua efficacia, ma ci sono anche diversi studi che mettono in mostra quali aree cerebrali vengono attivate quando la persona entra in rapporto con un cane o con un gatto, e quindi anche tutte quelle aree cerebrali che effettivamente ne traggono beneficio. Ma questa è un'acquisizione delle moderne neuroscienze. Il buon senso ci ha insegnato in tutti questi anni e che la capacità di relazionarsi con un animale e soprattutto di imparare a interagire con lui offre dei grossissimi vantaggi in diverse situazioni, sia delle situazioni ovviamente di disabilità, basta pensare alla ipoterapia, piuttosto che a una serie di bambini che hanno problemi autistici o anche problemi più gravi, e senza entrare nelle patologie, né quando si soffre banalmente di qualche disturbo d'ansia o anche di senso di solitudine o isolamento, la presenza di un animale è qualcosa che veramente apre le porte al cuore reciprocamente, e quindi la scelta di quel pezzo dice quello che accade, è quello di far scongelare un cuore e quindi di renderlo capace di continuare a sentire, di continuare a provare, ma anche di sentire una reciproca responsabilità. Quindi un buon motivo per aprire le porte di casa ha le condizioni però che si tenga presente che è una presenza, è come un'altra persona in certo. tutti i sensi, per sentimenti, per sentire e anche per bisogno di reciprocità, non mai pensare come un oggetto, e questo vale per tutte le cose, non bisogna inseguire gli ideali della famiglia perfetta con il cagnolino che scodinzola, bisogna inseguire la possibilità di stabilire delle relazioni che siano di reciprocità e di affettività. Allora vengano le porte aperte, e credo che anche in questo modo i cani possono crescere anche in maniera più sana e diciamo meno conflittuale rispetto a, come diceva il collega prima, che purtroppo si vedono di animali che soffrono a loro volta di situazioni di grosso stress. Professor Zucca, con lei entriamo nella mente degli animali. Noi spesso diciamo al mio gatto, me lo diceva anche il dottor Cervia prima di entrare in onda, no? Guardi, si occupi del mio cane, del mio gatto, per me è come un figlio, gli manca la parola. Gli animali, lo sappiamo, provano emozioni, ma adesso i nostri nonni già l'avevano intuito, ma adesso c'è una conferma. Sì, beh, diciamo che dal punto di vista evolutivo è plausibile pensare che l'intelligenza non sia un qualcosa di esclusivo della specie umana. Per fortuna, diciamo che, no? Sì, per fortuna nostra. Perché abbiamo, sì, infatti. Ed è diffusa in maniera, diciamo, uniforme in tutto il regno animale. Quello che cambia è il gradiente, che può essere diverso nelle diverse specie. Pertanto la prima cosa da dire è che sarebbe più corretto parlare di intelligenze animali. E in effetti si può pensare alla mente degli animali, all'intelligenza degli animali, come una sorta di kit cognitivo, una valigetta dove ogni specie mette dentro degli accessori più o meno sofisticati. E questi accessori dipendono dall'ambiente in cui la specie viva, della sua storia evolutiva, eccetera. Cioè, ci sono tantissime cose che gli animali sono in grado di fare abbastanza bene, come ad esempio orientarsi nello spazio, mantenere a memoria tutta una serie di eventi, apprendere, tenere a mente degli oggetti che scompaiono dalla vista, la cosiddetta permanenza dell'oggetto, utilizzare strumenti, risolvere problemi, generalizzare, apprendere concetti astratti. Ad esempio, mi viene sempre in mente, ogni qualvolta vedo i piccioni per strada, il fatto che sono in grado di riconoscere gli stili pittorici. Cioè, veramente? Infatti è molto interessante, nel senso che non sono, diciamo, con dei semplici esperimenti hanno dimostrato che facendo così, abituando e premiando un piccione su una serie di 10 quadri, di cui 2 erano di Monet, cambiando poi la serie con dei quadri diversi, lui era in grado di riconoscere lo stile di Monet, non quello specifico quadro. Non l'avrei mai detto dei piccioni, dottor Cervia, lei? Ma perché io... di solito i piccioni sono tra, no? tra i pennuti quelli che ci piacciono meno, no? Sì, di fatto. O perlomeno. Anche perché sono anche un veicolo di alcune malattie che eccolo, sono abbastanza... che gira il coltello nella piaga. Difatti, però ecco, per i piccioni possiamo spezzare una lancia a loro favore, hanno fatto un altro esperimento con il quale hanno dimostrato, forse tutti i radioascoltatori conoscono quel giochino da computer Tetris che serve così, gli oggetti ruotano e si incastrano sul fondo dello schermo, comunque sono in grado di riconoscere gli oggetti che ruotano su uno schermo molto meglio degli studenti universitari, quindi Se riguarda quello che dice, scusi, no prego. No, diciamo che ogni specie ha un kit suo che può essere più o meno diciamo ampliato, di certo non possiamo parlare di automi, sono esseri intelligenti e, come diceva il professor Mencacci prima, c'è bisogno di un rapporto bilaterale tra i due soggetti, non può essere semplicemente un rapporto unilaterale. Professor Mencacci, io so che lei deve scappare, allora prima di lasciarci, prima di salutarci, io voglio che lei ci aiuti a capire da dove originano le paure, spesso ingiustificate, nei confronti degli animali e come può la persona superarle, se è il caso, eh? Ma è uno, quello delle fobie, si chiamano fobie semplici legate agli animali, sono molto diffuse purtroppo nella popolazione, e devo dire che hanno anche una caratteristica di familiarità, quindi si trasmettono all'interno dello stesso nucleo familiare, non necessariamente per gli stessi animali ma verso gli animali. Beh, sicuramente sono tra i disturbi d'ansia quelli talmente comuni che la persona fa un evitamento, a volte però diventano particolarmente disturbanti. Mi riferisco prima ad esempio alla fobia rispetto ai piccioni, ma la più diffusa anche rispetto ai cani, e questo molte volte viene incentivato da una non adeguata educazione ai bambini su come avvicinarsi agli animali, e questo fa veramente parte dei compiti genitoriali di aiutarli ad avvicinarsi con grande rispetto agli animali, e se si avvicineranno con questo rispetto ne riceveranno altrettanto, e quindi pensiamo di avere degli adulti con meno paura rispetto a questi nostri amici da tanti millenni. Professor Mencacci, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a tutti e auguri. Grazie. Un abbraccio a tutti. A Roberto invece, di tutte le storie che hai raccontato, ci sono comunque sempre un cane o un gatto che rimangono, pur in mezzo agli altri che amiamo, proprio il nostro preferito. Tu ne hai avuti e ne parli? Sì, allora io ho avuto cani e gatti fin da quando sono nato. Ce n'è uno in particolare al quale sono più legato, che era un cane che è mancato qualche anno fa. E la storia era è semplice. Io e mia moglie abbiamo, per tutta una serie complicata di vicissitudini, adottato questo cagnolino che veniva dal canile, molto anziano, quasi cieco, completamente sordo, con un dente solo e malato di cuore, che non poteva avere emozioni forti perché veramente sveniva. Sì. Ci siamo per 2 anni completamente annullati, non uscivamo più la sera, facevamo dei salti mortali per arrivare a casa prima dal lavoro, proprio per evitare che lui avesse delle emozioni forti. Li abbiamo avuti contro tutti, i miei genitori, i suoceri, gli amici che inevitabilmente perdavamo. Ci siamo dedicati anima e corpo a questo cagnolino finché non è proprio mancato perché era troppo anziano. Ma ci ha fatto tanto di quel bene dedicarci in questa maniera a un animale che non era certo un animale, era considerato proprio un membro effettivo della famiglia, che siamo tutti e due diventati persone migliori. Su questo ci metto la mano sul fuoco. Professor Zucca, intanto, dato che arrivano molti messaggi di ascoltatori, e vorrei coinvolgere anche il dottor Cervia, che ci dicono andate a prendere i cani nel canile, perché soprattutto quelli adulti non trovano un proprietario, ma c'è anche il timore che il cane adulto ne abbia viste tante e portarlo a casa possa magari riservarci delle sorprese. È possibile questo? Ma diciamo che in generale quello che bisogna tenere presente sempre quando noi parliamo di animali è che è sbagliato usare il plurale, cioè noi parliamo di cani, parliamo di gatti, in realtà non esistono né i cani né i gatti, esiste il cane, il gatto con la sua storia, il suo carattere, la sua individualità, per cui diciamo, parafrasando quello che diceva Moravia, cioè i parenti non si scelgono ma gli amici sì, quindi va bene assolutamente andare nei canili a prendere gli animali, è giusto però che questa sia un'azione diciamo ponderata, fatta con un certo criterio, magari con l'ausilio di un medico veterinario comportamentalista o comunque con un'assistenza tale che ti permette di scegliere bene un animale che sia complementare a chi, alla famiglia, alla persona che dovrà poi tenerlo e vivere con questo animale per molti anni. Quindi diciamo questa è la principale indicazione che possiamo fornire ai radioascoltatori. Dottor Cervia, lei come veterinario che cosa vuole aggiungere? Assolutamente sì, ha ragione. Comunque ti voglio raccontare una mia esperienza di poche settimane fa. Mi è arrivato un cane che era stato raccolto in un canile, adottato da questa famiglia. Era un cane timoroso che aveva dei grossi problemi di comportamento, non camminava al guinzaglio, cercava continuamente protezione dai suoi padroni. L'ho rivisto dopo una settimana in cui i proprietari, consapevoli di quello che stavano facendo, persone di buon senso, hanno lavorato sul loro animale, era completamente trasformato. Quindi ha questa capacità comunque il cane di ritrovare la fiducia nell'uomo, cosa che aveva perso. Come tu prima dicevi, i cani, gli animali non parlano, non è vero, loro non hanno il dono della parola, però ci parlano. Inviterei gli ascoltatori a immedesimarsi in un animale. Immaginati di essere piccolo, 4 zampe, e di vedere un mondo che ti gira intorno di persone che camminano su 2 zampe molto più grandi di te. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. Eccoci tornati insieme, oggi una puntata tutta dedicata agli animali, ma soprattutto una puntata giocata sulle emozioni, di quelle che noi proviamo quando siamo con i nostri amici a quattro zampe, ma cercheremo anche di capire quali sono quelle che provochiamo noi in loro. Il nostro modo di accudirli, di accoglierli, di intrattenerli, genera delle risposte in loro che a volte vanno al di là del semplice ron ron del nostro gatto, dello scodinzolio del nostro cane. Professore, prima della pausa il dottor Cervia ci parlava della fiducia del cane verso l'uomo, ma lei che cosa vuole aggiungere? È sempre un problema di linguaggio, quello che ha detto il collega è assolutamente giusto, cioè molte persone pensano che poiché gli animali non hanno un linguaggio assimilabile a quello dell'uomo, sono tendenzialmente più stupidi rispetto all'uomo, ma il linguaggio e l'intelligenza sono due processi mentali completamente diversi, quindi uno può fare molte cose intelligenti anche se in realtà non possiede il linguaggio assimilabile a quello umano. Certo. E quindi questo è un problema di comunicazione normalmente. La maggior parte dei problemi nascono dell'interazione tra uomo e animale, chiaramente, da una incapacità o così una non comprensione tra le due parti. Claudio da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per avermi dato questa possibilità. Ci racconti. Volevo chiedere io e la mia famiglia siamo felicissimi proprietari di un Cavalier King di circa tre anni. Sì. È un cane straordinario, una personalità fantastica, ha un unico difetto, quindi volevo chiedere un consiglio ai vostri esperti. Quando usciamo insieme, tutti e tre, dà segni di ansia, di angoscia, di paura, addirittura piange, quasi come se avesse il terrore dell'abbandono. Non sono in grado di interpretare. Quando lo portate fuori insieme a voi, professor Zucca, sì. Lei che cosa penserebbe? Che lui magari vuole starsene a casa tranquillo? No, sto scherzando. Ma non ho capito bene, quando esce? Quando esce insieme a Claudio e alla moglie di Claudio, lui piange e dà una sensazione. Vero, Claudio, ho capito bene? Esatto. Purtroppo è molto difficile dare una spiegazione, una diagnosi certa, esatta, perché come nell'uomo, così avviene negli animali, ci possono essere una serie di episodi che magari risultano insignificanti per il bipede umano, ma molto significanti per l'animale. Questi episodi, magari negativi, si fissano e dopodiché creano le stesse ansie e fobie che possiamo riconoscere nell'uomo. Quindi, per cui è difficile, lei insisterebbe... mettere il cane su un lettino e analizzare un po' qual è stata la storia di questo animale, ma non sempre si riesce a, voglio dire, identificare il fenomeno che ha causato questo. Difatti gli animali soffrono molto spesso di queste paure che nell'uomo vengono identificate come inconsce, cioè sono difficili poi da identificare le cause reali. Bisognerebbe cercare di fare un lavoro e questo voglio dire possono appoggiarsi. E questo si può anche andare dal veterinario, vero dottor Cervia? Chiedere... In genere consiglierei di portarlo fuori più spesso, di fargli magari vivere questa esperienza più spesso in modo che sia più naturale. Abituarsi, anche perché il Cavalier King è il cane felice, è un cane sempre contento, sempre gioioso. I cani si annoiano, anche i cani come noi soffrono di questo problema, per cui portarlo fuori più spesso per me è un buon suggerimento, cercare di farlo stare più a suo agio possibile. E saluto e ringrazio i miei ospiti che ci hanno accompagnato fino a questo momento e faccio entrare in studio Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Anche oggi con Alberto abbiamo pensato di farvi viaggiare con noi in un mondo dove le arti accendono pensieri, attivano emozioni, musica, cinema e letteratura per far emergere aspetti del mondo profondo che vivono in noi, alle quali spesso non diamo modo di emergere. Invece noi aiutiamo proprio questo processo che un tecnico chiamerebbe di emersione emotiva. Vero Alberto? Questa sarebbe un po'... l'espressione per raccontare quello che oggi cercheremo di fare. Sì, in particolare le nostre emozioni abitano dentro di noi. Ci sono persone molto fortunate, molto competenti che riescono a usare le loro emozioni, a farne tesoro nella vita di tutti i giorni. Altre le chiudono lì in un angolino e spesso non lasciano. E noi invece vogliamo che da questo angolino saltino fuori. Esatto, e quindi le arti in generale sono proprio dei grandi amici, dei grandi ausili che ci possono aiutare a far emergere le emozioni che stanno dentro di noi. Insieme ad Alberto abbiamo scelto un tema che a noi è sembrato molto dicembrino, quello dei ricordi: fuori la neve, il freddo, la pioggia, dentro casa un camino acceso, una musica di sottofondo, degli amici. La prima cosa l'avete riconosciuta, questa bellissima voce di Malika Ayane, Alberto, un CD che noi ci sentiamo di consigliare, gli mettiamo il nostro bollino blu di Questa casa non è un albergo, sì, perché attiva emozioni, le smuove. Allora, un CD molto speciale perché in realtà riprende il CD che era uscito all'inizio di quest'anno, Grovigli, ma diventa un Grovigli Special Edition Tour perché insieme c'è anche un DVD dove si può vedere Malika in concerto, quindi la puoi ascoltare, la puoi vedere. E devo dire che il percorso musicale che Malika fa fare in questo CD ai suoi ascoltatori è davvero un percorso da brivido. Intanto direi la canzone che abbiamo ascoltato, per chi ha visto il film, evoca emozioni incredibili, ricordi? Grovigli di emozioni, non c'è titolo migliore. Il secondo aspetto, credo che la voce di Malika, che tu hai avuto ospite tra l'altro, e che sì, Paolo, devo dire che insomma sì, vengono tutti al tuo programma, Paolo Conte addirittura definito come una voce che ha l'aroma dello zenzero, molto ambrata, molto profumata, è proprio una voce che in automatico ti fa entrare in vibrazione e risonanza emotiva. E ci riporta un po' ai profumi del Natale, perché anche i profumi attivano ricordi. Assolutamente, c'è una canzone in particolare che io trovo straordinaria in termini proprio di emozioni, di ricordi, te la farei ascoltare e poi la commentiamo insieme. Sembra facile, invece no. È proprio una musica, noi abbiamo aperto col caminetto acceso, la neve, il lettone, e qua le realtà coccole, ecco. E direi più coccola di così questa canzone, perché mi è piaciuta molto, perché trovo che sia davvero emozionante, c'è un impasto di voci incredibili tra lei e Cesare Cremonini, che è il vero autore della canzone, l'ha cantata prima lui in un suo CD, e poi Non lo perderai, l'amore vero, e nonostante tutto resta un mistero quando abbiamo a che fare con l'amore, quando è amore non lo si perde, quindi lascia una traccia dentro di te, e anche se non c'è, anche un ricordo doloroso. Esatto, ma... ma noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme ad attivare i ricordi. Ci siamo lasciati con Malika Ayane e adesso noi ci alziamo, ci usciamo proprio da casa, davanti al caminetto, sotto le coperte, e andiamo al cinema per proporvi un film davvero particolare, dove il tema del ricordo che stiamo esplorando oggi in questa puntata di Sensoterapia è automaticamente scritto nella narrazione che viene proposta allo spettatore. Perché non mi racconta come hai iniziato a scrivere poesie? Ho iniziato a scrivere poesie perché mi ero innamorato e volevo esprimere i miei sentimenti. Urlo. Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte da pazzia, affamate, isteriche, nude. Ritiene che Urlo, il poema di Ginsberg, sia un testo osceno? Sì. Mi sono accorto che la poesia è un'articolazione ritmica del sentimento. Cos'è veramente osceno? E per chi? La vita di Ginsberg sembrava avere quel tipo di ritmo. Oh, legioni tutt'ossa, correte fuori! Ci sono libri che possono cambiare le nostre menti. L'eterna guerra è qui! Non voltiamo le spalle a questi immaginari distruttori della morale. Oh, vittoria! Cerchiamo di essere illuminati. Siamo liberi! Che cos'è la Beat Generation? Non c'è la Beat Generation, ma è una banda di ragazzi che vogliono farsi pubblicare. Al Alberto, da Malikayane a un film, direi un salto da Urlo, ed Urlo è proprio il titolo del film che vi proponiamo oggi, nello spazio di Sensoterapia, un film che Alberto ha così scelto per attivare i nostri ricordi. Sì, direi che questo è proprio un film che presidia il ricordo di una generazione di giovani uomini arrabbiati e di poeti che hanno provato a cambiare il corso della letteratura. È una ricostruzione molto particolare, molto speciale della vita di Allen Ginsberg, a partire proprio dalla presentazione del poema con cui ha provato a dare nascita alla Beat Generation. E i registi sono due documentaristi, Epstein e Friedman, hanno messo insieme il testo poetico di questo Urlo con cui lui ha provato a dare il via alla Beat Generation, e attraverso la narrazione del poema c'è l'esplorazione di un mondo che andava incontro a cambiamenti velocissimi, che in questo momento stiamo toccando con mano. Un poema che ha aperto la discussione su cosa è censura, cosa non lo è, cosa è osceno, cosa non lo è, cosa è poesia, cosa non lo è, cosa è letteratura, cosa non lo è. Un film molto particolare, non per tutti, ma per tutti coloro che tra i 50 e gli 80 si sono appassionati. Quindi io ci cado dentro, Alberto. Ti ringrazio per questo range così ampio, tra i 50 e gli 80. Ci siamo dentro tutti, no? Noi certo. Ascoltatori di Radio 24. Un film che affascinerà, ripeto, di non facile prima visione, per così dire, ma se ti lasci catturare, cammino acceso, film che sta andando. Chi non ha il cammino non ha importanza, però, perché adesso questo cammino sta diventando un po' un tormentone, allora. Perché il ricordo, noi lo leghiamo, il ricordo di delle chiacchierate d'inverno, delle riflessioni che si fanno tra pochi amici. Però ha il suo perché, anche il cammino. Hai ragione, e sai tra l'altro che questo è un film che in realtà è piaciuto particolarmente non a chi c'era in quel periodo, ma a chi non c'era, cioè molto amato dai giovani. Ma noi adesso facciamo un altro saltino, ritorniamo in casa per parlare di un libro di cui vi facciamo ascoltare un brevissimo estratto. Cortina, 13 dicembre 1984. Settimana bianca. Le mani dentro le moffole diventano chele. Sei buffo in questa foto, commenta Antonia. È la prima vacanza senza i miei genitori. Ne seguiranno altre, molte, nei college di Londra, Dublino, New York, tra figli di benessere e vestaglie. Giochiamo a tirarci palle di neve. In un attimo si fanno e si disfano. In mezzo a un traffico di lanci, con le mani arrossate dal freddo, continuo a compattare lo stesso cumulo di materia. Più è compatto, più è forte. È un sasso di ghiaccio quando lo lancio. È stata la prima e l'ultima volta che ho fatto male a qualcuno. Non volevo. Ero urgenza di densità che non si preoccupava dell'effetto. A scuola avevo preso il vizio di calcare. Quello che scrivevo su un foglio restava impresso nelle pagine che stavano sotto. Calcavo, mentre la mia famiglia lentamente sbiadiva. Gli insegnanti chiamavano i miei a colloquio. Qualcosa non va? Adesso so che non esistono cose che non vanno. Le cose tutte, anche quelle che si tengono in pugno, vanno come devono andare. Il problema è imparare ad aprire le mani. Quello che avete appena ascoltato è un flashback presente nell'ultimo romanzo Tutto torna di Giulia Carcasi, pubblicato da Feltrinelli, e l'autrice è qui con noi. Giulia, bentornata. Grazie a voi dell'ospitalità. Senti Giulia, oggi il tema del ricordo, della memoria è il filo conduttore della nostra sensoterapia. Come entra questo tema nella trama del tuo nuovo romanzo? Entra perché il protagonista Diego è convinto che per dimenticare non ci sia altro modo che ricordare. Ma proprio quando si crede padrone del proprio passato, il passato lo tradisce. Il problema è che il ricordo è il monumento di un istante, e come i monumenti, nella forma, nelle dimensioni, nei materiali, non coincide con ciò che realmente è stato. E infatti è molto interessante questo romanzo di Giulia Carcasi, l'abbiamo scelto perché c'è questo continuo doppio binario tra verità e realtà e inganno e memoria, che entrano come proprio un vulcano in eruzione nella vita del protagonista, che rimane bloccato su un treno dentro un tunnel tutto si fa buio e lui sviene, e da lì comincia questa esperienza dove si mescola tutto, e effettivamente ci dice che alla fine il ricordo entra potentemente in quello che siamo, nel reale di ciò che siamo, ma spesso anche lo confonde. Cosa ha significato per te, Giulia, entrare in questo modo in quel tunnel nero? E c'è qualche cosa di autobiografico nel tuo Tutto torna? Qualcosa c'è sempre nei libri. Io credo, ecco, che il frutto lontano dall'albero non cade mai. Sicuramente ho alcune caratteristiche in comune con i miei protagonisti. Ecco, Diego è uno che quando vede la Torre di Pisa raddrizza la schiena e, insomma, in qualche modo ha poca dimestichezza con i cedimenti. Io ci sto familiarizzando. Senti Giulia, questo è un periodo particolare dell'anno, si avvicina il Natale, si concluderà l'anno ed è sempre un periodo in cui, volenti o nolenti, facciamo dei bilanci, rimandiamo la memoria indietro, ricordiamo persone, fatti, situazioni che magari avevamo archiviato. Come si muove Giulia Carcasi in questa dimensione? Guarda, sono stata una persona veramente ossessionata dal ricordo. E credo che c'è anche una letteratura intera che ci inviti a fare questo, perché da sempre è stato valorizzato il prima. Fin da ragazzina mi veniva detto che il ricordo, che il passato condiziona il futuro, e ho fatto delle corse sfrenate all'indietro cercando di aggiustare qualcosa, non ci sono mai riuscita. E mi sono accorta ultimamente che è vero il contrario: il futuro in qualche modo riscrive il passato, è come l'ultima pagina di un libro che dà un senso a tutto quello che c'è stato prima e lo trasfigura. Sto cercando di accettare quello che è passato. Credo che, ecco, se in qualche modo è passato, un motivo ci sarà. Sto cercando proprio di staccarmene. Credo che poi tutti quanti noi abbiamo una coda di lucertola e per sopravvivere dobbiamo staccarcela. Punto gli occhi avanti adesso, insomma, prima li avevo rivolti all'indietro e all'indentro. Giulia, io penso che questa della coda di lucertola che tu ci hai così buttato lì sia un frammento su cui noi possiamo riflettere, Alberto. E direi che con quello che ci hai appena chiarito, a me diventa molto meno scuro il titolo del tuo nuovo romanzo, Tutto torna. Grazie a Giulia Carcasi per essere stata con noi, buonissima giornata Giulia, grazie. Grazie a voi. E per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai. A domani.